Lou von Salomé. Alcune grandi donne, a causa del loro essere libere e ribelli, ci sono state tramandate dalla storia androcentrica come insaziabili mangiatrici di uomini. Pensiamo a George Sand, Sibilla Aleramo, di altre come Mileva Marić e Nannerl Mozart. Il sistema androcentrico non riesce proprio ad accettare la genialità negata. Via via che dalle pieghe della storia, grazie soprattutto a diari e corrispondenze, riemergono figure di donne intelligenti ed emancipate, la loro storia viene riscritta e riproposta sulla base di documenti inconfutabili, ma quasi sempre la vecchia visione patriarcale fatica ad accettarla. Una di queste donne straordinarie è Lou von Salomé, scrittrice, filosofa, psicanalista, una delle prime, ma soprattutto donna libera che ispirò alcuni uomini considerati geni dell'umanità, Nietzsche, Rilke e Freud. Louise von Salomé nacque nel 1861 a San Pietroburgo da una famiglia ebrea di origini francesi. Il padre la adorava e così pure i cinque fratelli. Dunque Lou era abituata a sentirsi bene in mezzo ai maschi e questo suo atteggiamento disinvolto fu spesso causa di fraintendimenti. Uno degli episodi più eclatanti e drammatici di questo fraintendimento ci viene dall'uomo di chiesa a cui la diciassettenne Louise chiese di insegnarle la filosofia. Costui aveva il doppio dei suoi anni e tentò di abusare di lei, causandole il trauma sessuale che si trascinò dietro per metà della sua vita. Il tradimento da parte dell'insegnante di cui Lou si fidava la portò a chiudere il cuore e a non riuscire mai più ad abbandonarsi ciecamente all'amore. La storia di Lou è emblematica e ci mostra con chiarezza quanta fatica hanno dovuto fare le nostre antenate per potersi esprimere liberamente e per poter rapportarsi da pari a pari con gli uomini con cui avevano a che fare, anche i più aperti e intelligenti. Nel caso di Louise, la fine inevitabile era che si innamoravano di lei, che la volevano sposare e possedere e che se venivano rifiutati, poiché Lou, come decise di abbreviare il suo nome, aveva ben chiaro di voler vivere liberamente, si disperavano. Per questa sua scelta di libertà, Lou fu per tutta la vita in conflitto con la società e soprattutto con la madre. La filosofa sosteneva che la mancanza di spazio di libertà di movimento compromette tanto lo sviluppo dell'uomo come quello della donna. Da bimba chiese al padre di fornirle scarpe come quelle dei fratelli per potersi arrampicare sugli alberi. Alla risposta del padre, "Le bambine devono giocare in casa", reagì con furia. "Perché? Perché? Perché?" chiedeva piangendo di rabbia. A 16 anni, rimasta orfana di padre, cominciò a leggere Aristotele e Spinoza e a mettere in discussione il dogma religioso. Non voleva più andare a messa e cominciarono i problemi con la madre. Una volta, durante la predica in chiesa, al prete che asseriva Dio è ovunque, lei chiese: "Anche all'inferno dunque?" Poi scappò e non rimise più piede in chiesa malgrado le proteste della madre. Una volta cresciuta, si trasferì per studiare filosofia a Zurigo, l'unica città europea ad ammettere le donne all'università. Ma a causa della vita irregolare e bohémienne che conduceva, si ammalò di tubercolosi. Tuttavia, forte nel corpo come nello spirito, sopravvisse e sua madre la condusse a Roma, dove guarì completamente grazie al clima caldo e asciutto. A Roma conobbe il filosofo Paul Rée, il quale scrisse all'amico Friedrich Nietzsche: "Ho incontrato una creatura straordinaria, devi conoscerla." Lou Salomé era molto bella, ma ciò che faceva letteralmente perdere la testa agli uomini, e non certo a uomini comuni, era la sua brillante intelligenza. Lou era felice. Finalmente con gli amici Rée e Nietzsche poteva condividere i suoi studi e intuizioni filosofiche. Era convinta che rinunciare alla sessualità liberasse la creatività intellettuale. Voleva studiare e raggiungere la perfezione dell'intelletto e per questo propose agli amici filosofi una convivenza platonica a tre nello stesso appartamento, dove avrebbero condiviso idee, scritti e intuizioni, mantenendo però la propria libertà e ciascuno la propria stanza privata. Questa era l'idea di Trinità che lei ipotizzò, al di là della soffocante dualità della coppia, la possibilità di avere un terzo polo apriva le porte a una diversa modalità di vivere e pensare. La sua intuizione venne suggellata da un'emblematica fotografia divenuta famosa, in cui Lou appare su un carretto trainato dai due filosofi come fossero buoi, mentre lei brandisce un frustino. L'immagine mostrava chiaramente che era lei a guidare le loro menti e a tirare fuori il meglio dagli uomini che avevano la fortuna di frequentarla e di poter attingere alla sua chiarezza e coerenza di pensiero. Ma la iniziale purezza di intento non ebbe vita lunga. La cameratesca convivenza platonica non funzionò, dal momento che sia Paul che Friedrich si contendevano l'amore di Lou entrando in competizione tra loro. Entrambi la chiesero in sposa, ma lei li rifiutò, voleva restare libera e indipendente, cosa che le sarebbe stata impossibile con marito e prole. Propose dunque ai due pretendenti di passare del tempo a turno con uno e poi con l'altro, chiedendo a entrambi di essere pensata come fosse stato un uomo. La madre, scandalizzata, la voleva riportare a San Pietroburgo, ma Lou si impuntò per restare a Zurigo a studiare e così Madame von Salomé smise di pagarle la quota di iscrizione all'università. Dalle colte donne dei salotti che frequentava le venne fatto notare che vivere da sola per una donna era immorale e avrebbe potuto pregiudicare il movimento femminista. La madre spingeva perché lei sposasse il ricco ebreo Paul Rhee, che reputava della sua stessa estrazione sociale. Nietzsche, d'altronde, pur di sposarla, accettò di rinunciare a qualunque contatto fisico con lei. Lou leggeva e commentava i suoi scritti e solo dopo averla conosciuta Nietzsche si sentì pronto per scrivere il suo Così parlò Zarathustra. Ma la bigotta e incestuosa sorella di Nietzsche, Elisabeth, usò la famosa foto del carrettino per accusarla e cacciarla dalla casa di famiglia in cui era ospite. Probabilmente fu proprio lei la responsabile della pessima fama di cui Lou Salomè ancora oggi soffre. A causa dell'ostilità della sorella, litigò anche con Nietzsche e lo abbandonò, trasferendosi con Paul Rhee a Berlino, dove conobbe il suo futuro marito Friedrich Andreas. Elisabeth Nietzsche, gelosissima, aveva insinuato addirittura in una lettera a Madame von Salomé che Lou si prostituisse e a causa di questo Madame minacciò Lou di sospenderle l'assegno mensile se non fosse tornata immediatamente a San Pietroburgo. Per potersi affrancare dalla dipendenza economica dalla madre, Lou cominciò a scrivere un romanzo filosofico sulla perdita della fede dal titolo Lottando per Dio, D-io. Che firmò con lo pseudonimo maschile di Harry Lou. Grazie ai proventi del libro, poté finalmente mantenersi col suo lavoro, ma i guai causati dalla sua scelta di libertà e castità non erano finiti. Paul Rhee, geloso e invidioso, intercettate le disperate lettere che Nietzsche aveva scritto a lui supplicandone il perdono, gliele occultò e quando lei lo scoprì, si rese conto che senza ombra di dubbio il suo esperimento di convivenza paritaria tra compagni di studio era fallito. In quel momento di delusione e vulnerabilità, Andreas le propose un matrimonio di convenienza, promettendole che non lo avrebbe mai consumato e che l'astinenza da lei imposta sarebbe stata rispettata. La difesa del proprio corpo era radicata in lei. Lui accettò di sposare Andreas a queste condizioni, un matrimonio bianco nel quale si rifugiò per potersi muovere liberamente e viaggiare in virtù della rispettabilità a cui come donna sposata aveva diritto e di cui non avrebbe mai potuto godere come nubile. Malgrado ciò, anche il marito una notte tentò di violentarla. Conobbe a 36 anni, un timidissimo poeta tedesco esordiente, il 22enne Rilke, il quale aveva letto il suo saggio Gesù l'ebreo e ne era rimasto folgorato. Rilke divenne in breve pazzo di lei e forse perché molto più giovane e molto femmineo, trovò il modo di infrangere la barriera di lui riguardo al sesso. Lui liberò il suo corpo e si abbandonò all'amore con Rilke, incurante della differenza di età e di essere sposata, intuendo che grazie a quell'unione stava liberando in sé il sesso opposto. Grazie a lui, Rilke divenne uno dei più grandi poeti mai vissuti. Quando lui si abbandonava a eccessivo sentimentalismo, lei lo correggeva sfrondando le sue poesie del superfluo. Ancora una volta fu lei l'artefice del risveglio di un grande talento. Ma Rilke Era psicolabile, divenne soffocante e morboso. Lou non sopportava la sua completa dipendenza da lei e la sua depressione che minacciava in ogni momento di trasformarsi in psicosi. Dunque decise di lasciarlo. Dalle biografie che Lou Salomè scrisse su Nietzsche e Rilke, così come dalle lettere e saggi pubblicati ben prima che la psicanalisi fosse ufficiale, appare chiaro il ruolo di Lou come pioniera nello studio della psiche umana. Quando il marito scoprì la relazione della moglie, gliela rinfacciò violentemente, ma Lou sostenne di aver messo le cose in chiaro fin dall'inizio e di essersi attenuta ai patti che lui stesso aveva accettato. Il loro matrimonio era solo di convenienza e amicizia. Dal momento in cui lasciò Rilke, Lou cominciò ad avere diverse relazioni sessuali che lei viveva come forma di esplorazione e auto-osservazione, senza però mai lasciarsi coinvolgere sentimentalmente. Nel 1911, finalmente la cinquantenne Lou conobbe l'uomo che poteva fornirle gli strumenti di cui aveva bisogno. L'incontro con Freud a Vienna le confermò ciò che lei aveva intuito da sempre, la scoperta dell'inconscio e del suo ruolo nell'esistenza umana. Partecipò al primo congresso ufficiale di psicanalisi a Weimar. Le teorie di Freud furono per lei una rivelazione. Rientrata a casa, studiò da sola per un anno, poi scrisse a Freud chiedendo di poter partecipare alle sue lezioni. Lui la conosceva di fama, poiché aveva letto la biografia di Nietzsche che lei aveva scritto e entusiasta la invitò a Vienna. Intuendo che Lou era portata per l'analisi, la invitò a partecipare alle riunioni del mercoledì, dove lei era l'unica donna e spesso l'unica che osava dissentire da Freud, il quale la incoraggiò a scrivere saggi e a iniziare l'esercizio della psicoterapia con la sua figlia minore Anna, con cui si creò un legame forte e duraturo. Freud commentò così l'ultimo saggio di Lou Salomè: è il tuo scritto più bello, la prova della tua superiorità su noi tutti. Curiosamente, pur avendo ricusato per anni di avere rapporti sessuali, Lou scrisse molto sull'erotismo e sul sesso da un punto di vista psicanalitico. Trattò la figura femminile accuratamente e lucidamente in alcuni scritti, quali L'umano come donna, Il tipo femmina, Transizione, storie della vita interiore di cinque ragazze adolescenti, le figure femminili nei sei drammi familiari di Henrik Ibsen, un geniale saggio sulle figure femminili create dal drammaturgo norvegese, che illuminò a fondo i problemi e le contraddizioni della liberazione femminile. Quando nel 1892 la 31enne Lou Salomè scriveva Figure di donne, aveva già dimostrato, oltre al fascino che la sua intelligenza, la sua bellezza e il magnetismo della sua personalità esercitavano su chiunque la incontrasse, anche la sua noncuranza verso i pregiudizi sociali e la sua volontà di vivere fino in fondo la sua vita, seguendo la propria strada e le proprie passioni. Ed è la sua stessa aspirazione alla realizzazione che Lou vide espressa in quelle sei figure femminili ibseniane esaminate in Figure di donne. Analizzò e riscrisse le vicende di Nora, Helen Alving, Hedwig, Rebecca, Ellida e Edda Gabler, non trattandole però come personaggi letterari, bensì come archetipi psicologici, per scavare nella psiche femminile alla ricerca dei meccanismi inculcati nelle donne sulle relazioni, sui comportamenti coatti che conducono al conflitto fra gli ideali e la loro concretizzazione, e infine sul modo per evolvere verso una vera o falsa emancipazione. I suoi scritti sulla sessualità femminile ispirarono Freud. La teoria di Lou Salomè sul narcisismo positivo è tutt'oggi considerata basilare nella psicanalisi. In cosa consiste tale teoria? Beh, diversamente dalla visione maschile del narcisismo, considerato un disturbo della personalità, la visione femminile di Lou è positiva, poiché il narcisismo diventa quell'amore per sé che porta la donna fuori dal ruolo imposto di vittima, verso la coscienza di sé e il riconoscimento del proprio valore. Il narcisismo positivo di Lou permette alla donna di trascendere l'individualità per fondersi col tutto, da cui i suoi continui esperimenti di convivenza a tre per uscire dalla dualità della coppia. In sostanza, il narcisismo positivo di Lou è una via per l'illuminazione che si raggiunge però a partire da sé in maniera endogena, senza l'ausilio esterno di una qualsivoglia religione, dogma o pratica spirituale. La sua ricerca mirava all'autoliberazione attraverso la consapevolezza e il riconoscimento del proprio potere in maniera autonoma, l'unica possibile per emanciparsi dalla necessità dell'approvazione da parte del sistema patriarcale, di cui la sua stessa madre, come molte madri, si faceva paladina, imponendole di sposarsi, di avere figli e di comportarsi da donna secondo lo schema patriarcale prefissato. La sua energia, così solare, l'immensa forza spirituale e la lucidità di pensiero fecero da traino ad alcune delle menti maschili più brillanti del Novecento, che senza di lei non sarebbero riuscite ad esprimersi per loro stessa ammissione, non sarebbero sbocciate. Malou è stata considerata responsabile della pazzia di Nietzsche e di Rilke, della rovina di Rehe e anche del tentativo di suicidio di Andreas, quando lei in un primo tempo rifiutò di sposarlo per non ferire Paul Rehe, uomini deboli e possessivi che non seppero essere alla sua altezza. Visse e scrisse della liberazione della donna sperimentandola in prima persona, conoscendo il pregiudizio e la solitudine, scontrandosi con la possessività di ogni uomo che si innamorava della sua libertà e finiva per volerla sottomettere. Durante il nazismo, Lou venne definita nemica dello Stato in quanto sostenitrice della psicoanalisi, considerata scienza giudaica. Ricevette una citazione dalla Gestapo e fece sparire tutto il suo lavoro più compromettente, soprattutto lettere e diari. Dopo la sua morte, nel 1937, la Gestapo fece irruzione nella sua abitazione e trafugò i suoi scritti e documenti per nasconderli in un seminterrato di Göttingen, dove furono recuperati, trascritti e pubblicati a cura di Ernst Pfeiffer, un altro scrittore bloccato che lei riuscì a riattivare permettendogli di scrivere la sua biografia nell'ultimo periodo della sua vita. Marie, figlia del marito e della governante, fu adottata da Lou, che la nominò sua erede e che si rivelerà la fedele custode dei suoi scritti. Parlando di Lou Salomé, non possiamo non pensare a un suo collegamento con Sabina Spielrein, l'altra grande intellettuale ebrea russa che divenne psicoanalista e che fu ispiratrice di Freud. Mentre Lou riconfigurava il narcisismo come positivo e creativo piuttosto che come disturbo della personalità, Sabina, che nacque a Rostov sul Don due decenni dopo Lou, creò la neuropsichiatria infantile e prefigurò la teoria freudiana di Eros e Thanatos, ovvero amore e morte. Il 1911 fu l'anno in cui Sabine si laureò in medicina, con tesi in psichiatria e fu ammessa alla Società di Psicanalisi. In quello stesso anno, come sappiamo, la cinquantenne Lou von Salomé era divenuta alunna di Freud. Impossibile che non si siano incontrate. Noi della Scuola delle Donne le vediamo passeggiare insieme, scambiandosi opinioni sulla psicanalisi, nonostante la differenza di età. E con Sabina, finalmente, Lou potrebbe avere un puro scambio intellettuale, da pari a pari, rilassato e sicuro, senza dover sprecare energia nel rifiutare proposte di matrimonio o proteggersi da tentativi di abuso sessuale, come aveva dovuto sempre fare con filosofi e pensatori maschi, incapaci di rinunciare a possedere questa splendida donna. Lou von Salomé lasciò scritto: «Se davvero vuoi avere una vita, rubala».